Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. E buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Apriamo subito con quanto sta avvenendo alla Camera, dove è intervenuto il premier Mario Monti sulle dimissioni del ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, rassegnate, lo ricordiamo ieri, sempre qui a Montecitorio durante l'informativa dei due Marò in India. Monti si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Sentiamo allora quanto ha detto in aula. Sono rimasto stupefatto per ciò che il Ministro ha fatto e per ciò che il Ministro non ha fatto in connessione con le sue dimissioni. Ciò che ha fatto è aver reso note qui le sue dimissioni senza alcuna informazione preventiva né al Capo dello Stato né al Presidente del Consiglio. Niente mi è stato detto dal Ministro degli Esteri circa un suo dissenso e men che meno circa una sua intenzione di dimettersi. E intanto Monti prenderà l'interim degli esteri, essendo ancora lui il premier in carica, anche perché non si scioglie il nodo del governo, anzi scintille volano tra il Movimento 5 Stelle e il PD, ma Bersani potrebbe essere salvato dalla Lega, poi ne parleremo tra poco. Beppe Grillo poi usa un linguaggio colorito, per non dire scurrile, insomma il turpiloquio è entrato purtroppo anche nella politica italiana. La tesi è che i partiti sono tutti puttanieri e devono andare tutti a casa, hanno sulle spalle la più grande rapina ai danni delle giovani generazioni, dice Beppe Grillo, ci hanno preso tutti per i fondelli. Noi usiamo fondelli per non usare l'espressione che ha usato Grillo e cerchiamo di mantenere un po' un buon tono in radio. Replica immediatamente Bersani, auguri ai salvatori della patria. E tutto ciò, Elisabetta, dopo l'incontro con esito negativo tra il segretario PD Bersani e il Movimento 5 Stelle, che ha ribadito il no alla fiducia ma anche di non abbandonare l'aula al momento del voto. Un incontro in streaming questa mattina dove c'è stata subito un'accusa da parte del capogruppo grillino alla Camera, Roberta Lombardi. Sentiamo. Per me, come per tutti noi, è la prima esperienza in politica e mi sembrava un po' di stare a sentire una puntata di Ballarò, francamente. Sono 20 anni che noi sentiamo queste parole e noi non incontriamo le parti sociali perché noi siamo quelle parti sociali, quei cittadini, quei lavoratori, quei cassa integrati, quei studenti fuori sede, quei disoccupati che vivono tutti i giorni la realtà di questo paese. E dico che mi sembrava di sentire una puntata di Ballarò perché io ho 39 anni, sono 20 anni che voto e sono 20 anni che sento parlare delle stesse cose personalmente. Ecco, insomma, la Lombardi dice siamo noi le parti sociali, forse bisognerebbe dirgli che adesso che è stata eletta lei rappresenta la parte politica, ma comunque sentiremo quello che ne dirà la Camusso, il segretario magari CGL. Intanto il segretario PD ha subito precisato che si trattava invece di un incontro serio, altro che Ballarò, e ha replicato anche al Movimento 5 Stelle. Sentiamo Bersani. Cioè, pensare di fermare l'intelligenza con gli insulti è come pensare di fermare l'acqua con le mani. Uno può insultare finché sta fuori dal palazzo. Quando è nel Parlamento deve dire che cosa vuol fare per il Paese. Decidono così, decidono di non consentire, benissimo, lo dicono non a Bersani, che non si rompe la testa, lo dicono all'Italia. Così vale per tutte le altre forze politiche. Dicessero qual è la soluzione. Sul PDL vale lo stesso ragione. Io non dice non fai l'accordo, io ho detto quel che ho detto, l'ho detto in privato, lo dico qui, questa è la proposta. La consentono, non la consentono, si prendono le loro responsabilità. Io credo di aver avanzato una proposta che sia capace di rispondere sia a esigenze di cambiamento che vengono certamente anche dal Movimento 5 Stelle, non in modo esclusivo, gli ho detto stamattina, sia esigenze di corresponsabilità anche di forze che intendono stare all'opposizione, che hanno diversi orientamenti, ma che possono collaborare a una riforma della Repubblica. Questa dunque è la risposta di Bersani a Grillo, ma anche al Popolo della Libertà. Ci si dovrà confrontare poi però con i numeri del Senato, quindi cosa potrebbe accadere a Palazzo Madama. Qualcuno si dice si potrebbe astenere, qualcun altro potrà uscire dall'aula. Di certo, tornando alle consultazioni di questa mattina, il Movimento 5 Stelle ha detto: noi saremo presenti in aula e voteremo no. Ascoltiamo allora su questo il capogruppo Vito Crimi. Diciamo che non ci sono condizioni perché noi possiamo dare la fiducia a un governo fatto da questi partiti, che sia politico o tecnico. Non ci sono condizioni, quindi se in questa scelta. Escludiamo che usciremo dall'aula. Tutti? Escludiamo che usciremo dall'aula tutti. E si apre uno spiraglio per Bersani nella Lega, perché sennò, altrimenti, come dicevi tu Vincenzo, non ci sono i numeri. Il segretario del Carroccio Roberto Maroni non esclude invece la possibilità di uscire dall'aula al momento del voto a Palazzo Madama. Se decide di accettare le nostre condizioni, noi faremo la nostra parte, questo Maroni. In particolare, il segretario della Lega non fa nomi per il Quirinale, non è interessato a quella partita, ma è interessato alla convenzione sul modello europeo per predisporre una proposta articolata di riforma. Di che cosa? Della seconda parte della Costituzione. Insomma, una specie di nuova bicamerale, anche se è un po' difficile chiamarla ancora così. Un lavoro serio e complesso, spiega Maroni, da terminare in 6-8 mesi, entro la fine dell'anno al massimo. Naturalmente tutto questo avverrà se nasce un governo, e quindi la Lega sarebbe anche disposta a fare avere i numeri a Bersani. Il PDL invece ribadisce che è disposto a fare un governo con il PD, ma c'è sempre sullo sfondo il Quirinale. Tu hai sentito proprio Mara Carfagna, sentiamo. Il Movimento 5 Stelle ha ribadito il suo no a un governo Bersani. A questo punto ci aspettiamo che Bersani, come dice lui, si assuma le sue responsabilità, capisca finalmente, dopo più di un mese che non ha vinto le elezioni ma le ha pareggiate, che si intesti uno sforzo di dialogo e di unità e inizi a occuparsi dei problemi del Paese e non delle beghe correntizie del suo partito. Ci sono margini, almeno come leggiamo oggi sui retroscena, perché il PDL possa comunque dare una fiducia a Bersani? Nascerebbe un governo non insieme, ma che avrebbe voti del Popolo della Libertà proprio per una stagione di riforme? Sì, dipende ovviamente dai contenuti. I contenuti devono essere condivisibili e devono essere ovviamente contenuti utili a far uscire il Paese dalle secche della recessione nella quale il nostro Paese è piombato nell'ultimo anno. Quindi noi riteniamo che sia indispensabile fare un ragionamento sulla riduzione della pressione fiscale, su aiuti alle imprese e alle famiglie, anche sul pagamento dei debiti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni. Noi abbiamo più volte ribadito la nostra disponibilità ad un dialogo, perché riteniamo che il momento storico e politico sia tale per cui le forze politiche maggiori, quelle che hanno ottenuto un maggiore consenso alle elezioni, le forze politiche responsabili, debbano fare, come dicevo prima, uno sforzo di unità e debbano dimostrare capacità di dialogare nell'esclusivo interesse del Paese. E c'è anche poi ovviamente la partita del Colle. Noi non riteniamo che una forza che ha vinto di misura possa escludere la seconda forza politica da un dialogo che riguarda anche il nome del Quirinale. Credo che sia un ragionamento ragionevole e quindi chiediamo semplicemente di essere coinvolti in forza e in virtù degli elettori che rappresentiamo. Queste dunque le parole di Mara Carfagna del Popolo della Libertà. Ad animare poi il dibattito politico è anche il caso Sicilia. Rosario Crocetta, governatore di Palazzo dei Normanni, licenzia l'assessore alla cultura Franco Battiato, autore ieri di una battuta poco felice sulle donne presenti in Parlamento nel passato. Donne, Elisabetta, diciamo così, un po' dai facili costumi per non ripetere le parole di Battiato. Sì, Vincenzo, sembra che tocca a noi giornalisti frenare il linguaggio dei politici, che sta diventando un po' troppo colorito anche per il divino Franco. Ci aveva abituato alla poesia nelle sue canzoni, poesia non troppo presente nella frase di ieri, che come donna, insomma, mi ha anche dato un po' fastidio. Ai ai ai Franco, io cerco un centro di gravità permanente, gli italiani cercano un governo almeno un pochino stabile e noi aspetteremo quello che succederà domani al Quirinale, Vincenzo. Sì, è così, Bersani lo ha detto poco fa, dovrebbe andare domani sera al Quirinale, quindi poi sciogliere la sua riserva. E allora noi continueremo a seguirlo. Nel frattempo Susanna Camusso risponde anche alla Lombardi e dice che una parte del paese risponde solo al pessimismo, ma continueremo ad informarvi. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.